Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, lo sapete che nonostante la crisi che tante volte deprime le nostre aspettative, ci sono ancora aziende che assumono e soprattutto aziende manifatturiere. Una di queste è la Prysmian, che ha appena lanciato un programma di assunzioni di 40 ingegneri ed è uno dei tanti programmi di assunzione che la Prysmian sta lanciando e che rappresenta un po' l'esempio migliore di come il manifatturiero crea fatturato, crea servizi e crea occupazione. Se c'è una speranza per questo paese deriva dal manifatturiero di qualità di cui la Prysmian è un esempio, perché parliamo di un'eccellenza mondiale nei cavi per le telecomunicazioni e soprattutto nei cavi di energia. Tutti questi argomenti, come anche l'andamento del titolo, come anche il futuro del business, come anche le fabbriche e tante altre cose che vi sorprenderanno, le trattiamo nel corso di questa puntata con l'ingegner Valerio Battista. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, 40 ingegneri assumete? Noi prendiamo circa 40-50 ingegneri tutti gli anni, top dell'università, e gli facciamo un programma di formazione specifico che dura circa 2 anni. Che tipo di ingegneri? Ingegneri delle telecomunicazioni, ingegneri meccanici, un po' tutti? Ah, un po' tutti. Ingegneri meccanici, ingegneri di telecomunicazioni, ingegneri elettrici, un po' tutti. Ecco, ingegneri elettrici, perché poi l'80% del vostro business sono i cavi per il trasporto di energia. Esattamente. Ecco, ma li assumete questi 40 neolaureati usando la Live Chat? Gli facciamo fare una sottoscrizione sul nostro sito dove immettono il loro curriculum, poi vengono selezionati in tutto il mondo. Vengono selezionati e l'anno scorso, se non vado errato, è stata una selezione partendo da circa 10.000 sottoscrizioni. Ecco, voi alternate programmi per neolaureati a programmi per ingegneri già formati con qualche anno di esperienza. Infatti mi ricordo che l'anno scorso è stato lanciato un programma per gli ingegneri che già lavorano. Sì, abbiamo fatto il Make It, dedicato soprattutto alle fabbriche, quindi all'introduzione di 50 ingegneri specializzati o desiderosi di specializzarsi nella industria manifatturiera proprio. Un'altra vostra caratteristica sta nel volere creare un azionariato diffuso tra i dipendenti. Oltre il 40% dei dipendenti di Prysmian è azionista della società. Ci può spiegare come funziona? Praticamente noi abbiamo lanciato questo programma 3 anni fa. Si chiama YES. YES. Your Employee Shares. E l'abbiamo lanciato 3 anni fa. Questi 3 anni sono stati sottoscritti oltre circa lo 0,8% del capitale sociale, dove i dipendenti possono comprare le azioni con uno sconto marginale. E quindi investono direttamente. No, lo sconto marginale è un'espressione tecnica, chi ci ascolta può pensare che sia uno sconto piccolo, in realtà 15%. È il 15%, certo. E questo gli permette di acquistare azioni e di entrare nel novero degli azionisti della società. Poi, chiaramente, questo crescerà. Adesso, domani, andiamo a fare l'incontro con gli ambasciatori dello YES, sono praticamente tecnici o dirigenti. Cioè delle persone che in ogni fabbrica, in ogni stabilimento produttivo hanno il compito di diffondere l'esistenza di questo programma. Esatto, e di chiarire ai desiderosi di iscriversi quali sono le regole comportamentali e le regole finanziarie dell'operazione. Ecco, va ricordato che Prysmian è una public company, l'unica public company quotata a Piazza Affari e quindi c'è un azionariato diffuso, non c'è un azionista di riferimento. No. Questo rende anche più coerente con il tutto il fatto che ci sia una distribuzione di azioni ai dipendenti. Noi siamo molto contenti che i nostri dipendenti, che ad oggi sono intorno ai 5.000, siano possessori di azioni della società. E poi gli conviene perché vengono dati con uno sconto rispetto alla media delle quotazioni, alle ultime quotazioni? Rispetto alla quotazione del momento in cui il piano è stato lanciato. Ecco, si può anche utilizzare il TFR per fare questo? Per fare questo si può caricare le azioni sullo stipendio, il costo delle azioni sullo stipendio, o utilizzare il TFR. Ci sono vari modi per smussare l'impatto economico alle famiglie. Teniamo presente che alcuni dei nostri azionisti sono anche gli operai della fabbrica thailandese o della fabbrica filippina, che chiaramente hanno remunerazioni mensili estremamente contenute. Certamente. Ecco, Prysmian ha varie caratteristiche. È il leader mondiale insieme alla Corni nella produzione di cavi. È l'unica public company italiana, è una delle principali società manifatturiere ed è la seconda società manifatturiera italiana a capitale privato. La prima è il gruppo Rocca, la seconda è la Prysmian, visto che ormai la Fiat è andata via dall'Italia e le altre società grandi sono a capitale pubblico. Per capire bene di che cosa stiamo parlando, ascoltate questa scheda. Prysmian Group è leader mondiale nel settore dei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni, con circa 7 miliardi di euro di fatturato, 19.000 dipendenti e 89 stabilimenti in 50 paesi. È la seconda società manifatturiera privata italiana, subito dopo il gruppo Rocca Techint, che ha un giro d'affari di circa 25 miliardi di euro. La produzione di cavi è un primato mondiale della manifattura italiana, un settore nel quale, storicamente, non siamo mai stati secondi a nessuno. Prysmian è un nome relativamente nuovo, ma vanta una storia antica. La società è infatti nata nel 2005 da uno spin-off della parte cavi e sistemi della Pirelli, ceduta da Tronchetti Provera a un fondo di private equity gestito da Goldman Sachs. La cessione era finalizzata a finanziare la scalata a Telecom Italia. Da quell'anno, e ancora oggi, a capo dell'azienda c'è l'ingegnere Valerio Battista. A sua volta la Pirelli, fondata nel 1872 da Giovanni Battista Pirelli, aveva iniziato fin da subito a produrre cavi e sistemi di telecomunicazioni, conquistando una leadership mondiale parallela a quella degli pneumatici, che valgono di meno, anche se sono più noti al grande pubblico. Nel 2007 la società si è quotata in borsa e nel 2009 ha effettuato l'importante acquisizione del gruppo Draca, assumendo la configurazione attuale. Nei prossimi anni il gruppo si è detto intenzionato a effettuare ulteriori acquisizioni. È l'unica public company italiana quotata in borsa. Non esiste un azionista di controllo o di maggioranza, ma tanti azionisti che hanno tutti quote inferiori al 6% e che spesso restano nel capitale solo per alcuni anni. Prysmian vanta una solida presenza sui mercati tecnologicamente avanzati e offre una ampia gamma di prodotti, servizi, tecnologie e know-how grazie a 17 centri di ricerca e sviluppo e oltre 500 ricercatori. Il gruppo, attraverso i suoi brand commerciali Prysmian e Draca, è attivo nella progettazione, produzione, fornitura e installazione di cavi per le più varie applicazioni ed è organizzato nei segmenti operativi Energy Project, Energy Products e Telecom. Il segmento operativo Energy Projects comprende il business high-tech e a elevato valore aggiunto, il cui focus è rivolto al progetto e alla sua realizzazione, nonché alla personalizzazione del prodotto. Alta tensione terrestre, sottomarini e surf, ovvero cavi ombelicali, tubi flessibili e cavi speciali DHT, Downhaul Technology, per il mercato petrolchimico. Il segmento operativo Energy Products è quello di maggiori dimensioni, circa l'80% dell'azienda, e comprende il business energia e infrastrutture e il business componenti e reti industriali. Il segmento operativo Telecom comprende la realizzazione di sistemi in cavo e prodotti di connettività usati per le reti di telecomunicazione. Il portafoglio prodotti include fibre ottiche, cavi ottici, componenti e accessori per la connettività, cavi OPGV, Optical Ground Wire, e cavi in rame. Avete appena sentito una scheda che vi ha raccontato quali sono le peculiarità di Prysmian, che è una delle principali aziende manifatturiere di questo paese. Poi ci sono altre novità che vi diremo nella seconda parte del programma. Adesso avvisi sul traffico e pubblicità. Restate. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Certe imprese sono possibili solo grazie agli dèi dello sport. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Io sono qui per raccontarvele. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30. Naturalmente qui su Radio 24. Fabbrica 2.4. Buongiorno, rieccoci in onda. Stiamo parlando con l'ingegnere Valerio Battista, amministratore delegato di Prismia, anche produce cavi e sistemi per la trasmissione di energia e di dati e telecomunicazioni, e che nella prima parte ci ha parlato di come vogliono coinvolgere i dipendenti nell'azionariato e anche delle assunzioni che hanno in programma, che non è una cosa da poco. Ma torniamo alla questione manifatturiera. Voi avete quasi 100 stabilimenti, di cui alcuni in Italia, giusto? 88 per la precisione, dei quali 6 in Italia. Uno di questi è quello di Battipaglia, dove di recente c'è stato un lavoro di ampliamento e per l'inaugurazione è stato vostro ospite il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Esattamente. 2 settimane fa il Presidente Renzi è venuto a visitare lo stabilimento di Battipaglia, FOS, Fibre Ottiche Sud, che è uno stabilimento, l'unico stabilimento italiano che produce fibre ottiche e uno dei pochissimi in Europa. Abbiamo fatto degli investimenti per autoprodurci l'energia elettrica, che è una delle voci di costo più importante delle fibre, e abbiamo fatto, non ancora finito però, degli investimenti per ampliare la capacità produttiva e migliorarne notevolmente l'efficienza. Pur tuttavia, lei in quell'occasione ha sottolineato che ci sono alcuni costi di sistema paese che rendono difficile essere competitivi rimanendo in Italia. Sicuramente uno era quello dell'energia, che rappresenta circa il 10% del costo, e l'altro importante è quello del lavoro, che rappresenta un bel 30% del costo. Eppure in Italia gli stipendi non sono alti. Sto parlando di costo per l'azienda. Il problema è il cuneo fiscale, che è ancora molto elevato. Anche. Senta, di recente la Commissione europea ha lanciato una nuova strategia che si chiama Connectivity for European Gigabit Society, con degli obiettivi molto ambiziosi, cioè entro il 2020 la connessione universale in tutta Europa a 30 megabyte al secondo e addirittura metà dei nuclei familiari a 100 megabyte. Questo vi ha fatto guadagnare un bel buy da Morgan Stanley, che ha detto che Prismian sarà il principale beneficiario di questo piano della Commissione UE. Del resto, l'unica tecnologia europea per cavi in fibra ottica è la vostra. Siamo prima di tutto il leader europeo, sicuramente i secondi nel mondo nella produzione di fibra ottica. Abbiamo l'unico brevetto europeo, uno dei 3 al mondo, per produrre fibre ottiche, e quindi riteniamo che se ci sarà un'accelerazione delle reti in broadband passeranno lavoreremo. Tra l'altro la parte di fibra ottica è quella più marginale, tant'è che la divisione TLC rappresenta per voi il 14% dei ricavi, ma ben il 22% degli utili. Certamente, va tenuto conto che nella parte energia i metalli, che rappresentano quasi il 50% del fatturato, sono un pass-through al mercato però. Ecco, questo buy di Morgan Stanley e comunque l'attenzione sulla notizia data dalla Commissione europea ha fatto sì che il vostro titolo nelle ultime settimane stia continuando ancora a salire. Il titolo si è comportato bene, prima di tutto sulla base dei risultati della semestrale, direi. Poi chiaramente anche sulle previsioni che possono essere dovute a queste novità. Certamente, queste novità che poi fanno anche sempre molto notizia. Ecco, a proposito della semestrale, com'è andata? La semestrale è andata bene, abbiamo chiuso con 3 miliardi e 8 di vendite circa, con una crescita organica dell'1,8%, l'adjusted EBITDA quasi a 350 milioni, con una crescita del 10% sull'anno precedente. Abbiamo dato una guidance al mercato finanziario per una chiusura di anno fra i 670 e i 720 milioni, quindi intorno ai 700 plus. Senta, Siccome voi siete diventati famosi per aver fatto una delle più grandi acquisizioni, che è stata quella di Draca, tant'è che Prysmian oggi, rispetto alla vecchia divisione cavi e sistemi della Pirelli da cui trae origine, con l'acquisizione di Draca e altre operazioni, è ormai un'azienda molto diversa. La grande domanda che il mercato si fa, e anche noi giornalisti, è: ma allora ci saranno altre acquisizioni? Voi eravate più di un anno fa in contatto con American Cable, se non vado errato, anzi diciamola bene, qualcuno ha scritto che voi eravate in contatto con American Cable, poi però non sapremo mai se erano congetture o no, comunque nulla si è fatto. Insomma, questa acquisizione allora? Abbiamo il bilancio, lo possiamo fare, chiaramente dobbiamo trovare l'occasione appropriata. Abbiamo fatto delle acquisizioni anche quest'anno, più piccole. 2015 abbiamo acquisito la maggioranza, il 51% di Oman Cable Industries in Oman. Stiamo continuando a operare. Chiaramente grosse acquisizioni non ci sono, tanti target. Quando sarà il momento, ci sarà l'opportunità. Comunque c'è un interesse anche perché l'azienda ha molta liquidità. Diciamo che l'azienda genera cassa, ha ridotto i debiti notevolmente ormai. E quindi di questa cassa dovrete pur farne qualcosa. Assolutamente. Visto che ci sono anche i tassi bassi. Dobbiamo usarli bene per i soldi. Un grande tema, lei ha anche partecipato a un convegno proprio qui al Sole 24 Ore su questo argomento, è quello dell'innovazione nelle reti elettriche. Le reti elettriche in particolare in Italia sono ancora molto arretrate, c'è ancora un'elevata percentuale di dispersione, e questo è un tema sia di efficienza economica che di ambiente. Voi come vi ponete rispetto a questo tema? Beh, noi stiamo continuando a sviluppare nuovi prodotti proprio per migliorare le reti elettriche da svariati punti di vista, sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista delle perdite di energia. Ultimamente abbiamo omologato il 525.000, che serve proprio per aumentare la potenza trasmessa riducendo le perdite e riducendo i costi di sistema. Poi un tema che forse riguarda l'efficienza delle reti elettriche è quello delle smart grid, quindi centrali più piccole, più innovative e autosufficienti. Certamente, man mano che le rinnovabili prendono piede, e devo dire che stanno prendendo piede abbastanza bene, e la casualità della generazione comincia a creare sempre più problemi ai gestori di rete. E questo possiamo aiutare proprio con i componenti di smart grid. Facciamo tutta una serie di componenti per controllare le correnti e le potenze nei cavi, e questo permette poi a chi gestisce la rete di indirizzare correttamente i flussi di energia. Dunque, ingegner Battista, avete tanti soldi perché il business rende bene, ma non è che si debbano per forza impiegare in acquisizione. Voi fate anche molto sviluppo interno. So che avete investito per esempio moltissimo negli impianti sottomarini. Sì, diciamo che negli ultimi 2-3 anni abbiamo potenziato notevolmente la nostra capacità produttiva sia a Pozzuoli sia in Finlandia, dove vengono prodotti i cavi di interconnessione sottomarina. Ritengo e vedo che le interconnessioni sottomarine hanno il grande pregio di essere rapidamente realizzabili, quasi esenti da problemi di permessi e non disturbano assolutamente il... Quindi per dire l'eccellenza italiana nella manifattura, a Battipaglia c'è un gigantesco centro di competenza per i cavi per le telecomunicazioni, e a Pozzuoli ce n'è anche uno per i cavi sottomarini. Per i cavi sottomarini. Che è una bella sfida in termini industriali, perché vuol dire che se il cavo che trasmette energia elettrica deve sopportare tutto il peso dell'acqua e trasmettere per migliaia di chilometri energia elettrica, una roba pazzesca. Esattamente, in realtà sta sotto il fondo del mare, quindi noi abbiamo navi attrezzature per posare il cavo fra 1 e 2 metri sotto il fondo del mare, fino ai 300 metri di profondità. Ma com'è possibile che convenga trasportare energia così su una distanza così lunga e supportare un peso del genere? Beh, questo qui perché sulla distanza lunga in realtà non si va più in corrente alternata, ma si va in corrente continua. Ci sono delle stazioni di conversione ai terminali del cavo e si può portare la potenza per lunghissime distanze. Tra l'altro voi avete acquisito la terza nave posacavi. Nell'ambito dei vostri asset c'è la proprietà di navi che posano cavi sottomarini per energia. Io ho visto sezione di questi cavi quando sono venuto da voi, sono dei si chiamano cavi, uno per un cavo pensa una roba flessibile, sono dei giganteschi e pesanti tubi. Assolutamente. E noi abbiamo la nave posacavi più grande del mondo, la Giulia Verne, che porta fino a 8.000 tonnellate di cavo in un'unica piattaforma rotante. Abbiamo tre anni fa, con l'acquisizione di Global Marine Energy UK, comprato una seconda nave, la Cable Enterprise, e quest'anno abbiamo varato a primavera la Ulisse, che è una la terza. Non è veramente una nave, è una piccola nave per fare delle pose in acque poco profonde. Ecco, ma questi investimenti in sviluppo quanta parte del vostro fatturato assorbono? Diciamo del budget degli investimenti assorbono circa 100 milioni l'anno. Che non è poco. Il tempo è tiranno, ringraziamo l'ingegnere Battista, arrivederci alla prossima occasione, ingegnere. Grazie a tutti quanti voi. Saluto gli ascoltatori, ci risentiamo domani alle 13.15.